l'aria calda mi accarezza il viso, sembra un po' estate, non lo so. Cammino e guardo un ragazzo che corre, mi sorride, è allegro e convinto, lui ha già vinto. Vita, vita, così bella sei, quando ti guardo come ti vorrei. Vita, vita, così bella sei, quando ti penso come ti vorrei. Il profumo nell'aria è un aroma raro di pace e calma e mandorlo amaro. Il mondo fila girando in fretta, sembra un gioco ma non ti aspetta. Vita, vita, così bella sei, quando ti guardo come ti vorrei. Ti penso come ti vorrei. Un cane mi guarda con occhio dolce, un soffio di vento mi fa pensare al mare lontano dove gli piace andare, e il pensiero corre, mi lascia sognare.